Bonsoir, je suis le capitaine de l'île de Saint-Louis. A parlare Axel, il capitano dell'isola di Saint-Louis, che non ha un domicilio fisso, ma almeno è dotato di numero civico. Le parole del basco, che è basco d'origine ma non ha un basco in testa, bensì un cappello d'altra foggia, eppure non è di foggia, riportano i due alla realtà. Il sindaco, che non capisce una beneamata mazza di francese ma si adegua, viene presentato dalla sopracitata intermediatrice culturale come le maire, il sindaco appunto, di un'importante località italiana in viaggio diplomatico per conto di se stesso. Sbrigate le formalità tipiche di questi incontri, foto ricordo e visita dell'ambasciata allestita lungo la Senna, ci si congeda, mentre l'intermediatrice elenca i futuri impegni del sindaco, a insaputa dell'interessato stesso, includendo un inaspettato incontro all'UNESCO.